4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Amici dei motori, buonasera, bentornati ancora una volta, una puntata, la seconda del 2009 di Quattro Ruote e Dintorni, in collaborazione fra Radio 24 e il mensile Quattro Ruote. Ancora una volta una puntata ricca di contenuti, si parte dalla Toyota IQ, provata con noi da Carlo Di Giusto di Quattro Ruote, che è già in linea. Caro Carlo, buonasera e benvenuto. Buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori, soprattutto buon anno. Sì, buon anno, non è mai tardi per augurarlo, e poi cercheremo di capire cosa si augura il mercato dell'auto così tanto in difficoltà, grazie a Daniele Sparisci, che il tuo collega si è recato a Detroit, al salone, uno dei saloni più importanti del mondo, e in qualche modo, aprendo il 17, è già in grado di suggerirci quelle che saranno le novità principali del settore auto. Chiuderemo poi con un collega, giornalista di auto, Mario Rossi, che si occupa di analizzare per noi tutte quelle gabelle, tutte quelle tasse, tutti quei balzelli fiscali che portano un semplice costo a cifre incredibili. Parliamo per esempio del rinnovo della patente piuttosto che della revisione del veicolo e di altre imposte dovute. Quindi state all'ascolto, mezz'ora dedicata interamente ai motori. Ma partiamo da quella che è una delle prime novità di quest'anno, in realtà già molto annunciata sia dai concept car che dalle prime fotografie, ormai è ufficiale: Toyota IQ. Vuoi presentarla tu prima della nostra scheda, Carlo? Sì, la Toyota IQ è, direi, la novità più sensazionale dell'anno. È un'automobile lunga meno di 3 metri, 2 metri e 98 centimetri per l'esattezza, con 4 posti. Quindi una macchina che un po' rivoluziona il concetto di city car. Direi che finalmente l'industria automobile sta cominciando, forse spinta anche dalla crisi, a proporci qualche cosa di nuovo. Sì, perché sicuramente ridurre i consumi, ridurre le dimensioni è un po' l'imperativo di tutti i costruttori di oggi. Allora cerchiamo di capire bene di che auto stiamo parlando grazie alla nostra scheda. Per realizzare la nuova IQ, alla Toyota hanno rimesso in discussione il concetto stesso di automobile. La sfida degli ingegneri giapponesi è stata quella di realizzare una vettura a 4 posti in poco meno di 3 metri, senza sacrificare la sicurezza e il piacere di guida. Questi aspetti, uniti a una ricca dotazione di serie, che comprende anche i cerchi in lega leggera e la vernice metallizzata, hanno fatto lievitare il prezzo. Su strada dimostra una maneggevolezza impareggiabile, grazie anche al diametro di sterzata particolarmente ridotto. Ecco le caratteristiche principali. Nome: Toyota IQ. Carrozzeria: 3 porte a 4 posti. Dimensioni: lunghezza 2,98 m, larghezza 1,68 m, altezza 1,5 m. Motore: anteriore trasversale, 3 cilindri in linea, 998 cc. Potenza: 68 cavalli. Trasmissione, trazione anteriore, cambio a variazione continua CVT. Prezzo 13.751 euro. Ecco Carlo, partiamo da quest'ultimo dato, il prezzo. Certo che è lievitato, come diceva la scheda. Sì, il prezzo è abbastanza impegnativo. Bisogna tenere conto però che la Toyota IQ porta delle innovazioni che non sono condivise da nessun altro modello della Toyota. Pertanto il costo produttivo è nettamente più alto rispetto a un'automobile come l'Aygo, per restare in casa Toyota, che utilizza componenti condivisi, addirittura viene costruita in joint venture con il gruppo PSA Peugeot Citroën. Ne abbiamo parlato, vi ricordate, Peugeot e Citroën. Senti Carlo, se è giusto sicuramente pagare la qualità, poi bisogna, una volta guidata la macchina, capire anche come si comporta. Diceva la nostra scheda che ha una qualità, per essere un mezzo inferiore ai 3 metri, una qualità di guida su strada impareggiabile. Che cos'ha di così eccezionale quest'auto? Relativamente alla sua categoria, certo, in questo momento. Certo. Guidando la Toyota IQ si ha la sensazione di essere al volante di un'automobile normale. Ecco, non ci sono differenze se non quelle in positivo date da una maneggevolezza, questa sì, davvero impareggiabile. Il diametro di sterzata particolarmente ridotto la fa quasi girare su se stessa. Il comfort è buono. Direi che il motore è anche abbastanza silenzioso, soprattutto quando la si usa in città o fuori città. Direi che non ci sono sacrifici da fare, soprattutto per chi siede davanti. L'abitacolo, per appunto per i passeggeri anteriori, è grande come quello di una vettura normale, addirittura la larghezza è paragonabile a quella della Toyota Auris. Eh sì, 1,68 m non sono certo pochi, quindi i passeggeri... No, per essere una city car è un po' larga, sì. Ma i benefici si godono nell'abitacolo. Per esempio non guidando spalla a spalla, scontrando il gomito con il vicino, esatto, sì. E non è poco. Senti Carlo, parliamo di sicurezza. Ti ricordi le polemiche seguite al famoso test dell'Alce della classe A che investirono anche la Smart, fu bloccata la distribuzione, poi aumentati gli pneumatici, insomma ribassata ancora per farla stare in strada. Voi stessi avevate dei dubbi, poi insomma la Smart è stato il grande successo che è stato, una cellula anche molto sicura. Come se la cava in quanto a sicurezza il progettista dell'IQ? Che cosa si è inventato? Beh, si sono inventati l'airbag all'1.8 per proteggere le teste di chi siede dietro. La distanza tra i poggiatesta posteriori e l'1.8 in effetti è ridotta all'osso, evidentemente, per poterci far stare quattro persone in un'auto lunga meno di 3 metri. Pertanto si è reso necessario questo accorgimento. Diciamo che la concorrenza, che non ha appunto quattro posti, si è subito scagliato contro questa soluzione dicendo ecco anche loro sono preoccupati per la sicurezza, sì. Hanno messo l'airbag all'1.8. In realtà noi sappiamo che i feriti e le vittime di tamponamenti violenti sono sull'ordine del 3% degli incidenti, quindi è veramente una preoccupazione, diciamo, limitata, insomma. Limitata, sì. Chiaro. Mentre ancora i dati dei crash test Euro NCAP non sono stati diffusi, ma la Toyota sostenevano di puntare alle 5 stelle. Oggi con la progettazione automobile, diciamo che chiunque è in grado di progettare un'auto che superi molto bene i crash test dell'Euro NCAP e ottenere quindi 5 stelle, quindi non c'è motivo di non credere. Sì, su questo siamo d'accordo, ormai tutte le auto, quasi tutte, sono veramente costruite in maniera eccellente. Carlo, grazie di questa tua testimonianza della prova, a prestissimo. Per maggiori informazioni sfogliatevi Quattro Ruote, ci sono tutti i dati nel dettaglio. Grazie Carlo Di Giusto e a presto. Grazie a te Roberto e un arrivederci a tutti gli ascoltatori. E adesso noi proseguiamo chiudendo il discorso Toyota IQ con la pagella che vi faccio ascoltare e poi passiamo alla seconda parte della trasmissione. Posto guida. A fare la differenza è la larghezza. Chi guida non deve temere di stare gomito a gomito con chi siede accanto. Tra le regolazioni mancano quelle in altezza del sedile e in profondità del volante, ma la posizione corretta la si trova comunque. 4,5 stelle. Finiture. Rispetto alle altre Toyota, quelle piccole si intende, la differenza è sensibile, anche il prezzo se è per questo. Comunque, raffinata e inattesa la grana dei rivestimenti di plastica, sensazione di qualità un po' ovunque, 4,5 stelle. Comfort, un po' per l'ampio spazio a bordo, un po' per il cambio dolce, poi per il motore silenzioso e le sospensioni piuttosto efficaci, alla fine si viaggia come su un'auto di categoria superiore, 4 stelle. Su strada, un giudizio che premia le tante qualità dinamiche dell'IQ, dall'agilità alla prontezza dello sterzo, dalla sensazione di essere su un'auto di dimensioni normali alla sicurezza di marcia, sostenuta dall'ESP che è di serie, 4,5 stelle. Questa era la pagella per la Toyota IQ, trovate tutto sul nostro sito da lunedì www.radio24.it con un paio di foto allegate. Quattro ruote e dintorni. Come promesso, allora via al Salone di Detroit, apre i battenti l'11 gennaio, quindi domani per i giornalisti, ma in realtà poi ci sono gli operatori del settore, i commercianti e finalmente il pubblico potrà assaggiare le novità del mondo auto, ma non solo americano, mondiale dal 17 gennaio prossimo, quindi fra 7 giorni. Abbiamo delle anteprime, perché come sempre prima di ogni salone viene un po' diffusa quella che è la voce principale, le novità presenti, perlomeno quelle più importanti. Daniele Sparisci di Quattro Ruote, buonasera e bentornato. Buonasera a te Roberto e a tutti i tuoi ascoltatori. Senti, che tipo di salone è Detroit? Io l'ho chiamato prima con Carlo Di Giusto uno dei saloni più importanti del mondo. Insomma, noi siamo abituati a parlare di Motor Show, di Parigi, di Ginevra. Che tipo di salone è Detroit? Detroit è il salone che tradizionalmente apre la grande stagione automobilistica, cadendo proprio al ridosso delle festività natalizie appena terminate. È il salone che per anni ha dettato la linea delle grandi case americane e dove ultimamente gli europei hanno giocato un ruolo sempre più importante, non solo gli europei, anche i costruttori giapponesi. È stato sempre il salone delle esagerazioni, grandi presentazioni spettacolari, Jeep che infrangevano vetri, ballerine e grandi coreografie in una grande atmosfera americana, addirittura mandri editori liberati in strada per presentare modelli fuori strada, quei SUV che hanno fatto certo la fortuna delle case americane. Beh, insomma, si sa, gli americani in questo non si limitano. Chissà quest'anno, ce lo dirai tu quando ci sentiremo dopo il salone, se la crisi imperante in questo settore, soprattutto nel 2008, e tutte le ombre lunghe che si allungano sul 2009 andranno a limitare la loro creatività oppure no. Hai nominato i giapponesi, allora in terra americana iniziamo da loro, Toyota. Toyota sarà presente a Detroit e presenterà la nuova Prius, l'auto ibrida best seller nel mondo, che sarà presente in una versione aggiornata ed è una bella sfida, perché se la vedrà con la principale concorrente, che è un'altra ibrida, la Honda Insight, una ibrida un po' più piccola pensata dai giapponesi per fare grandi volumi. Insomma, una bella battaglia. Sicuramente la Prius è stata l'auto che ha scritto la storia dell'ibrido e che ha rappresentato un po' una parabola dell'industria dell'auto, da una parte i SUV, da una parte i giapponesi che guardavano avanti e guardavano a un futuro a basso impatto ambientale, a consumi ridotti. E i risultati, infatti, ci sono stati: più di 1 milione di vetture vendute, grande successo sicuramente per la Toyota Prius. Attenderemo per giudicarla anche la Honda Insight. Passiamo invece all'Europa, BMW in grande rispolvero con un'auto che già ha fatto parlare tanto di sé. Chris Bangle l'ha disegnata con degli angoli incredibili, vengono smussati con la nuova Z4, e qui non a caso si utilizza l'aggettivo nuova, perché davvero ci sono tante differenze, a iniziare dal tetto, vero? Sì, davvero, qui è rimasto solo il nome della Z4, perché il lavoro che è stato fatto, almeno a giudicare dalle prime immagini, a giudicare dai primi dati, è veramente incredibile, nel senso che è stato abbandonata la soluzione in tela, il classico tetto, per puntare su un hardtop ripiegabile, seguendo il classico schema coupé cabriolet, un tetto che in una manciata di secondi rientra nel bagagliaio, che avvicina molto la nuova BMW Z4 all'eterna rivale, la Mercedes SLK, che per prima debuttò con questa soluzione. Eh sì, era un po' dovuto questo tetto. Poi ci saranno i motori 2005-3000, ormai BMW si rinnova di ogni anno, e c'è anche il turbo questa volta col 3000, insomma, che promette. Abbiamo veramente più di 300 cavalli, un'auto da grandi prestazioni. Ma c'è un'altra particolarità che non va trascurata: per la nuova Z4 è stato scelto lo stabilimento tedesco di Regensburg al posto di quello del South Carolina di Spartanburg, dove erano state prodotte tutte le roadster del marchio tedesco, a cominciare da quella Z3 che un po' segnò il ritorno in grande stile in questo terreno della BMW. Eh sì, anche questa è una novità importante. Se Volvo presenterà la S60 Concept del Mercedes, un Blue Zero di cui ci parlerai nelle prossime settimane, direi di chiudere la carrellata di novità con l'unica presenza italiana. Insomma, c'è una sola rappresentante, sebbene molto importante. Eh sì, questo è stato definito, questa edizione di Detroit, il salone dei grandi assenti. Tra l'altro mancherà anche Ferrari, che è un brand che è stato sempre presente, un marchio storico, ma non solo Ferrari, anche Nissan, Mitsubishi, Suzuki, insomma la crisi picchia duro. Però a rappresentare l'Italia ci sarà la Maserati 4 Porte Sport GTS, che è una versione bomba della berlina con 440 cavalli a disposizione, finture sportive e un design particolarmente curato. Molto bene, chiudiamo con una domanda un po' più ad ampio respiro: come credi che affronteranno questa crisi gli americani? Sono arrivati tanti finanziamenti dal governo, Ford ha detto no grazie, non ne abbiamo bisogno, ma GM e Chrysler hanno detto sicuramente sì. Ecco, dopo l'iniezione di liquidità e dopo lo scongiurato fallimento immediato che si era paventato, sicuramente l'atmosfera che si respirerà sarà migliore di quello che si era detto fino a qualche settimana fa. Certo che sarà un anno molto duro, basta vedere i dati del 2008, definito dagli analisti un anno disastroso per il mercato americano, dove si sono persi 3 milioni di veicoli rispetto all'anno precedente, e alcune stime dicono che nel 2009 le vendite potrebbero contrarsi fino a raggiungere i 10 milioni, quindi significa che dal 2007 al 2009 si perderebbero qualcosa come 6 milioni di veicoli, che sarebbe una tragedia per l'industria americana e per tutto l'indotto. Pensate quanta gente dipende comunque da tante industrie, da tutto l'aftermarket. Grazie davvero a Daniele Sparisci, ci sentiamo al tuo ritorno da Detroit. Grazie e buon lavoro. Grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Buon lavoro. E dopo il salone di Detroit badiamo al nostro portafoglio, argomento sempre molto caldo ed interessante, lo so dalle mail che ci mandate a quattroruote@radio24.it, andando ad analizzare, o meglio facendo analizzare da Mario Rossi, collega di Quattro Ruote, quello che ha scritto in un'inchiesta molto interessante che trovate a pagina 28 e 29 del numero di gennaio in edicola. Caro Mario, bentornato. Bentrovati a voi, a te e a tutti gli ascoltatori. Le chiamano spese, sono solo abusi. Sia spese che abusi sono due parole forti. Vogliamo spiegare quali sono i primi passi di questa inchiesta, poi entreremo nel dettaglio. Si parla di balzelli, di tasse, di costi non sempre evidenti, Mario, vero? Sì, perché dentro vari capitoli di spesa che tutti noi automobilisti dobbiamo affrontare un po' nell'arco della nostra vita di automobilisti, appunto, sono nascosti tanti balzelli. Per esempio nella revisione, nel rinnovo della patente, nel pagamento dell'assicurazione o delle multe, non c'è solo l'importo dell'operazione to cure, ma appunto sono nascosti vari balzelli, tasse, costi occulti oppure più o meno espliciti, che fanno lievitare di parecchio il costo dell'operazione in sé, che finiscono nelle tasche di vari soggetti, dal fisco ad altre amministrazioni, alle poste e così via. Si parla di centinaia di milioni di euro all'anno, perché noi automobilisti siamo tanti. Iniziamo a fare qualche esempio, se vuoi partiamo o dalla revisione, sapete ogni 4 anni dalla nascita di un'auto e 2 anni successivamente va fatta la revisione, teoricamente ha un costo abbastanza limitato, poi quasi raddoppia, vero? Sì, perché la tariffa della revisione fissata per legge è di 45 euro, peccato che a questi 45 euro occorra aggiungere il 20% di IVA che finisce allo Stato, quindi 9 euro per ogni revisione, altri 9 euro di diritti, non si sa bene quali siano questi diritti, che finiscono nelle casse del Ministero delle Infrastrutture, e poi naturalmente c'è un versamento postale da fare che misteriosamente, invece che 1,10 euro come in tutti gli uffici postali, in tutti i bollettini normali, costa 1,80 euro o 1,70 per i pagamenti online. Insomma, alla fine da 45 euro si passa a quasi 65. Se pensiamo che nel 2007, l'ultimo dato annuale definitivo, ancora non c'era il 2008, erano state sottoposte a revisione presso le officine private 14,3 milioni di vetture, insomma, è facile fare il calcolo. Diciamo che l'operazione ha portato via dal portafoglio degli automobilisti circa 1 miliardo di euro, 286 milioni dei quali finiti in balzelli vari, per esempio 24 milioni alle Poste Italiane, 129 milioni al fisco e 129 milioni al Ministero. Questi sono costi che gravano davvero sul nostro portafoglio. Dall'altra c'è un governo, ma ci sono sempre stati i vari governi che dicono, insomma, abbiamo bisogno di soldi per ripianare tutte le spese, e quale migliore occasione di prendere un pochino da tanti, no? Sapete che questa è una delle teorie economiche principali, meglio prendere 20 euro da 14 milioni che andare a tassare magari di 3.000 euro solo 1.000 soggetti, evidentemente. Hai qualche consiglio? So che è impossibile chiedertelo, ma ci provo lo stesso, da dare agli automobilisti. Uno che mi viene molto naturale, superficiale se vuoi, è quello di controllare sempre bene tutte le voci delle spese, anche per evitare poi delle figuracce, perché se sentono che la revisione costa 45 e il conto finale 65, si possono imbestialire gli automobilisti, ma poi quei 65 vanno dati. Esatto, tra l'altro la tariffa delle revisioni presso le officine convenzionate è stabilita per legge, le associazioni di settore si sono impegnate a rispettarla, quindi quei 64,70 euro o 80 a seconda del tipo di versamento è la cifra dovuta. al netto ovviamente di eventuali controlli dei gas di scarico, bollini blu, di eventuali riparazioni o interventi sulla macchina. Un modo per risparmiare questo è fare la revisione, ove possibile naturalmente, tra l'altro in alcune motorizzazioni non si può fare, presso l'ufficio provinciale della motorizzazione. In questo caso costa semplicemente solo 45 euro, quindi sì, c'è un certo risparmio, però ovviamente non sempre e non tutti possono, e in non tutti i casi si può fare. Vabbè, certo, poi c'è anche chi scrolla le spalle, salvo poi lamentarsi dei costi e dire vabbè, però insomma mi devo sbattere io personalmente in prima persona, certo. E insomma quei 20 euro servono anche a quei diritti. Se si vive come in un paese lontano dal capoluogo, ovviamente non ha molto senso per risparmiare 20 euro spenderne 30 di gasolio o mezza giornata di ferie. Evidentemente. Mario Rossi, grazie davvero, ci risentiremo magari per parlare del bollo più avanti, che è un altro di quei costi contro cui Quattro Ruote si scaglia da tempo. Grazie, grazie prestissimo e buona serata. E a tutti gli ascoltatori, buona serata. Con la voce di Mario termina anche la nostra trasmissione, che troverete integralmente sul web radio24.it da lunedì, grazie a Valeria, il nostro webmaster che puntualmente sempre si occupa di mettere online quello di cui parliamo. Grazie invece a Filippo in regia che ci ha seguito dall'inizio. Inizio a voi che ci avete ascoltato e scelto ancora una volta ogni sabato alle ore 21. Sentiremo poi se ci sono delle modifiche di orario che concernono anche noi nel nuovo palinsesto della nostra radio. Grazie di cuore, a presto, da Roberto Rasia, una buona guida.